Io da casa subito ti chiamo, rispondimi presto, rispondi ti amo, ti amo, ti amo. Gelato al cioccolato, gelato al cioccolato.